America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Obviously, the situation in the Middle East implicates our energy security. The situation in Japan leads us to ask questions about our energy sources. Barack Obama ha presentato il suo piano energetico, lo avete sentito in poche parole, ha detto una cosa importante, direi che quella che è forse la più importante, e cioè che non si può, nonostante gli incidenti nucleari in Giappone, non si può, l'America non può fare a meno dell'energia nucleare. In gioco non c'è soltanto una questione di approvvigionamento energetico che resta fondamentale, importante. Barack Obama ha detto, ad esempio, si è impegnato che si dovrà ridurre in America di un terzo il consumo o comunque l'importazione di petrolio dall'estero nei prossimi 10 anni, e deve essere questa, ha detto, una risposta alle continue crescite di domanda dell'energia globale. I want to announce a new goal. When I was elected to this office, America imported 11 million barrels of oil a day. By a little more than a decade from now, we will have cut that by one third. That is something that we can achieve. Barack Obama ha parlato anche di Medio Oriente, ha affrontato le due crisi parallele, quella giapponese da una parte, quella petrolifera con gli incidenti, con le rivoluzioni democratiche in Medio Oriente. Devo dire che lo scenario non è molto rassicurante, perché se la rivoluzione democratica in corso nel mondo arabo dovesse arrivare all'Arabia Saudita, beh, allora lì davvero ci sarebbero dei problemi, perché se la Libia, che contribuisce con una quantità relativamente modesta, il 2% della produzione annuale di petrolio, finirebbe per essere intaccato da una sospensione della produzione libica, beh, non è lo stesso per l'Arabia Saudita. E dunque, nel momento in cui rischiamo di vedere una crescita della domanda del petrolio proprio perché c'è più sospetto sul nucleare, abbiamo anche una nuvola piuttosto scura che si aggira nel mondo arabo, nel Medio Oriente e nei paesi del Golfo. The United States of America cannot afford to bet our long-term prosperity, our long-term security on a resource that will eventually run out. And even before it runs out, we'll get more and more expensive to extract from the ground. Barack Obama è realista, se dice che bisogna diversificare in altre risorse energetiche alternative, per esempio i carburanti biologici, oppure l'energia solare, l'energia eolica, lo dice perché, e lo cito, gli Stati Uniti d'America non possono permettersi di perseguire la loro prosperità di lungo termine e soprattutto la loro sicurezza di lungo termine su una risorsa che alla fine si esaurirà. Dunque la linea di Obama non cambia, la linea di Obama è che a un certo punto il petrolio, il carburante fossile, avrà un suo termine, e quindi per questo ci sarà bisogno di continuare a tenere il nucleare in prima fila come risorsa importante. Il presidente ha fatto altre proposte, ad esempio ha parlato delle auto elettriche e vuole che ci sia un investimento massiccio in modo che ci sia una crescente introduzione sul mercato americano di auto elettriche, e questo sta già funzionando, ma ci vorranno anni. Il suo progetto è un progetto di medio-lungo termine, proprio per poter accomodare quella che è una trasformazione epocale dell'economia americana e, se vogliamo, del modo di vivere stesso degli americani. So here's the bottom line. There are no quick fixes. Anybody who tells you otherwise isn't telling you the truth. And we will keep on being a victim to shifts in the oil market until we finally get serious about a long-term policy for a secure, affordable energy future. Ai microfoni America 24 abbiamo il professor Marzio Galeotti, docente di economia dell'ambiente e dell'energia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professor Galeotti. Buongiorno. Abbiamo sentito il presidente Obama che, in un discorso molto importante che ha fatto ieri sull'energia, ha dato vari messaggi, ma quello che ha colpito di più naturalmente è che, secondo lui, e uso le sue parole, non possiamo possiamo eliminare dal tavolo il potere nucleare, l'energia nucleare. Qual è la sua impressione? Qual è la sua reazione a questa posizione del presidente americano? È comprensibile. Gli Stati Uniti sono uno dei paesi che ha più centrali nucleari sul proprio territorio. Aspettarsi che potesse decidere una moratoria sulle centrali nucleari era impensabile per il contributo alla produzione di elettricità che gli impianti esistenti danno. Naturalmente Obama vuole rassicurare i suoi cittadini affermando che soprattutto nei confronti degli impianti più vecchi si adeguerà la manutenzione, si faranno controlli più approfonditi per evitare, diciamo, una psicosi di tipo Fukushima, ma allo stesso tempo non è ovviamente possibile nell'ordine delle idee che un paese che conta, diciamo, per il 20%, se non sbaglio, delle produzioni elettriche dal nucleare possa di colpo o in tempi rapidi poterla sostituire con altre fonti. Ecco, qui però non si parla solo di sostituzione, si parla anche di nuovi investimenti. Il presidente aveva annunciato nel discorso per lo Stato dell'Unione che avrebbe stanziato alcune decine di miliardi di dollari proprio per sviluppare nuovi impianti nucleari, soprattutto due in Georgia, e dunque per la prima volta in 30 anni, perché poi per 30 anni l'America non ha più costruito un impianto, si sarebbe tornati al nucleare. Ecco, questo è uno dei punti centrali. Si tornerà dunque anche a costruire? Allora, negli Stati Uniti non si costruisce un nuovo impianto nucleare dagli anni, fine degli anni 60, quindi da molto tempo, e questo sostanzialmente per ragioni che sono ad un tempo di tipo regolatorio, autorizzativo, e quindi collegate alla sicurezza, dall'altro di finanziario, visto l'ingente sforzo finanziario che è necessario, che di solito non è possibile, soprattutto nel modello americano, senza, diciamo, le garanzie e l'aiuto dello Stato. Obama, credo, sulla pressione, la spinta da una parte dei produttori di elettricità e del nucleare, diciamo della lobby, dall'altro sulla spinta dell'esigenza climatica che induce a ridurre il ricorso a fonti fossili, ha deciso che il nucleare vada, diciamo, rinnovato, e quindi si ritorna al nucleare, anche tenuto conto del fatto che vi sono alcuni reattori molto vecchi che a quel punto bisogna decidere, come dicevamo prima, se sostituirli, chiuderli e sostituirli con altre fonti, oppure rimpiazzarli con forme, reattori dalle tecnologie più avanzate. Ecco, quanto pericoloso sarebbe non procedere lungo la strada di nuovi investimenti? C'è un indotto forte, mi sembra, no? Sicuramente un elemento importante da tenere presente, la valenza, diciamo, tecnologica, la valenza, se vogliamo, economica in generale per quanto riguarda l'indotto, la funzione di volano che queste tecnologie energetiche hanno. Devo dire naturalmente che nel caso del nucleare questo è un fatto importante, non è un'esclusiva della tecnologia nucleare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo 43 anni, i Buffalo Springfield sono di nuovo insieme per un tour. Neil Young, Stephen Hills e Richie Ferney torneranno ad essere insieme a partire da giugno. Dei Buffalo Springfield, For What It's Worth. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.